Salve a tutti amici da casa, state per ascoltare l'episodio 12 di Finbusters, ma prima che lo facciate devo segnalarvi una cosa. Ci sono stati dei problemi tecnici in sede di registrazione e purtroppo oltre alle nostre voci è stato registrato anche un rumore di fondo, un odioso ticchettio stile metronomo che non siamo riusciti a eliminare in fase di editing. L'abbiamo ridotto il più possibile per permettervi di ascoltare comunque le nostre voci. In ogni caso, vi avverto che è davvero molto fastidioso, può causare mal di testa come quello che mi è appena scoppiato adesso che ho finito l'editing. Per farci perdonare, in settimana pubblicheremo anche l'episodio 13. Ascoltate l'episodio 12 a vostro rischio e pericolo. In descrizione del file trovate anche la scaletta nel caso siate interessati solo ad alcuni argomenti e volete ascoltare quelli per evitarvi di farvi scoppiare una dolorosissima emicrania. Vi saluto, ci scusiamo per l'inconveniente e ci risentiamo all'episodio 13. Ciao ciao! Film Steve called me up and said, "Wanna hang out tonight? We could see an indie film or just grab a bite." I said, "Oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home and..." Dan dan. Previsto un ritardo di 17 minuti. Caccatore di merda! Come avete capito, Non pensavo partisse. Che puntata è? La 11? 12. E okay, ancora. 12. Ah, io non tengo mai il numero esatto in testa, insomma. C'è grande confusione nella mia testa. Dicevo, siamo arrivati all'episodio 12 di Filmbusters. Io sono Alex Diro e con me al solito ci sono Intrinseco. Ciao! E il Monco. Alle 3, apre alle 3. No, scusate, sono qui in negozio da frusciante e dico, apre alle 3. Ok, e, allora, puntata successiva al grande successo dell'episodio 11, dove parlavamo solo ed esclusivamente di Dark Knight Rises, Cavaliere Oscuro il Ritorno, siamo stati anche in testa alla classifica di iTunes, insomma, una roba pesa, insomma, come si dice, come dicono i giovani di oggi. Però vabbè, noi guardiamo sempre avanti, nuova puntata, ovviamente non parleremo di nuovo del Cavaliere Oscuro il Ritorno, anche perché siamo abbastanza abbottati i maroni di sto film, no? No, dai, dai, io ho preparato un dossier di 20 pagine. Vabbè, più che altro non ci siamo preparati niente su quelli nuovi. Ecco, sì. Vabbè, ok. E vabbè, insomma, come... immagino sia doveroso, ormai ogni puntata dobbiamo dedicarla a qualcuno, dedichiamo la puntata al volatile che il Monco ha messo sotto questa settimana. Era un gufo. Era un gufo? Sì, sì. Dalle foto sembrava un Barbagianni, però. No, era un gufo. Era un gufo. Quindi, cioè, ridini che sia giusto che sia andata così. Sì, perché sai, il gufo gufa, no? E allora ho detto, do una mano a Bellocchio a vincere, invece no, no. Io fossi te gli dedicherei una riranga. Ariranga, arirang, ario. Grazie, grazie a tutti. Ok, quindi allora fa neanche rima. Abbiamo fatto pace, insomma, giusto, con noi stessi. è giusto perché ce l'ho nella Festival Bar Compilation rossa, quindi inutile dire. È la hit più scaricata su iTunes, dopo ci Sì, siamo noi. esatto. E niente, allora passiamo direttamente, prima di passare ai film, diciamo che è una puntata quasi esclusivamente dedicata ai film, dato che ne sono usciti una caterva dopo il 29 agosto, data appunto d'uscita del film di Batman. Però prima di trattare questi film che ricordiamo sono The Bourne Legacy, Baby Call, Eva, Brave, Maialino Coraggioso, La Bella Addormentata, La Faida, insomma, roba abbastanza consistente. Il Monco voleva farci un boxino, un riassuntino insomma di Venezia della 69esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, di come è andata, dei piagnistei e di tutto il resto. Esatto, prima di passare a questa puntata della B, avete notato Brave, Bellocchio, Bourne, Baby Call, Batman, no Batman basta. Passiamo prima alla lettera boxino, esatto. Bella addormentata anche, dai. Bella addormentata. Brutta Peter troia. Brutta troia. Brutta troia, ecco. Per il fenomeno del betacismo passiamo alla lettera V, Venezia. Allora, si è conclusa sabato sera questa festival 69esima edizione. Si è conclusa nel peggiore dei modi perché... ci hanno dato dei peracottari, insomma, perché la cerimonia è stata un po' bruttina. C'è stato Philip Seymour Hoffman che era vestito da impiegato del catasto, secondo qualcuno, perché era appena arrivato con un volo da Toronto, perché tutti gli americani sono già trasferiti a Toronto perché c'è il festival, e quindi lui è tornato di corsa, almeno ha fatto l'onore di tornare. Anche questo andrebbe lodato, visto che tutti dicevano gliene frega un cazzo di Venezia. No, è che c'è Toronto subito dopo, vabbè. Comunque, poi è caduto anche il Leone d'Argento e sono stati scambiati dei premi, insomma, non è stato il massimo. Riassuntone dei premi. Come avete capito, Arirang Kinky Duke si è portato a casa il Leone d'Oro con il suo Pietà, che già quando era stato mostrato alla stampa sembrava ovvio che avrebbe stravinto, era il favoritissimo. Paul Thomas Anderson si porta a casa il Leone d'Argento, sì, Leone d'Argento punto, non c'era altro. Leone d'Argento invece per la regia va al tedesco, un attimo che me lo piglio. Fate rumore intanto voi, ecco. È lui quello che è caduto, no? Sì, a lui, infatti, a Ulrich Seidel, esatto. Con il suo... Paradise Glaube, che sarebbe la terza parte di una trilogia. La terza, sì, la conclusiva, no, questa era. Io ho capito che era l'inizio. Ah, era l'inizio, boh, io ho capito che lui voleva fare un film in tre parti. E poi l'ha spezzato, però sembrava, da come ne parlavo, sembrava l'inizio, però boh, non so. Vabbè, sì, forse era, sì, così. Insomma, è parte di una trilogia. E a lui appunto il Leone d'Argento per la miglior regia, gli italiani a secco, a parte come si chiama Fabrizio Falco, il giovane che ha recitato sia nella Bella Addormentata sia in È stato il figlio di Cipri, si è portato a casa il premio per la migliore esordiente, e Cipria che è riuscito a portarsi a casa il premio per il miglior contributo tecnico. A mani vuote Bellocchio, che insomma... Il suo film ha generato una bella polemica, però ne parleremo poi. Riassuntone un po' delle reazioni ai film. Paul Thomas Anderson, The Master, acclamato da tutti, contentissimi, felicissimi, un film bellissimo, però, come ha detto il ciccione, come si chiama? Donzelli. Donzelli. Come ha detto Donzelli... film celebrale e non film de panza, insomma, uno di quelli che la prima volta sì, può piacere, però è la seconda che l'apprezzi di più, quindi è piaciuto ma non abbastanza. Chi non è piaciuto è Malik, che è stato da alcuni definito alla frutta, oppure la copia di se stesso, la copia di The Tree of Life. Diciamo che sono le stesse critiche che hanno scritto per Tree of Life, quindi bisogna vederlo prima di bollarlo definitivamente. Poi che c'è? Olivier Assayas ha vinto come miglior sceneggiatura, tutti dicevano che era anche lui candidatissimo per il Leone d'Oro, almeno il Leone d'Argento, invece per una regola bruttina, insomma, non si è capito bene se è stata scelta dai giurati o era stata scelta dagli organizzatori qualche giorno prima, ancora non si sa, che è quella che se tu vinci un premio non ne puoi vincere un altro. Poi non è vero perché The Master ne ha 22, ma no, vabbè. Asayas, appunto, con il suo Après Me, un film sul post 68 che è piaciuto molto ai vecchiacci. Poi La Cinquième Saison di Peter Brosnan e Jessica Woodward, anche questo è piaciuto molto, soprattutto a un'amica di Daniela Virgilio a Venezia Live, un programma di Giusti. Daniele Cipri è stato il figlio, anche questo è piaciuto, però è il classico film che non vincerà mai un festival, troppo particolare. Quello della Comencini, Un giorno speciale, neanche si sono scomodati a fischiarlo o a buarlo, hanno semplicemente detto: ah, questo è in competizione, ma veramente schifo questo. Il L'attesissimo Passion di Brian De Palma, fischiato, insomma, fischiato, comunque non è piaciuto, hanno detto che è una robetta minore. Kitano ha annoiato con il suo Trash Beyond, c'è chi è dormito, sempre Giusti, e chi se n'è andato, qualcuno ha lodato... Ma praticamente Giusti ha dormito soltanto, sì, si portava il cuscino e dormiva. Sì, quasi. No, qualcuno ha lodato la varietà delle morti, c'è una scena in cui una testa mozzata viene presa a colpi di mazza da baseball, quella è piaciuta molto. Poi il Brillante Mendoza era il preferito dagli italiani, che sempre nel programma di Giusti l'hanno eletto, cioè chiunque diceva che era uno dei migliori, invece alla fine non si è portato a casa un cazzo con il suo Sina Pupunan, che è bellissimo il titolo. Poi il russo Izmena, Betrayal, in inglese, di Kirill Serebrennikov, sembrava qualcosa di già visto, invece sembra comunque interessante appunto da qualche commento. E in conclusione, Harmony Korine col suo Spring Breakers doveva essere la barzelletta del festival, invece è uno di quelli che è piaciuto di più anche ai critici più insospettabili. Conclusioni, la protesta, l'uscita poco carina e molto infantile di Bellocchio, e soprattutto di un certo Francesco Giro, che è ex sottosegretario nel governo Berlusconi dei beni culturali, uno che dovrebbe capire qualcosa di arte ma non capisce un cazzo, proprio perché è berlusconiano, e insomma si è messo a difendere Bellocchio e il film La Bella Addormentata, anzi Bella Addormentata senza là, e dicendo che insomma dovrebbe vincere qualcosa, che noi quando andiamo all'estero con i nostri film a Cannes, a Venezia, qualcosa lo portiamo sempre a casa, invece in Italia non vinciamo mai niente, che la giuria non ha capito niente, eccetera, una polemica sterile e carica di vittimismo. Spero che creino sto premio del vittimismo, così l'Italia vince qualcosa il prossimo anno. E insomma, ne avete sentito anche voi di sta polemica, se volete aggiungere qualcosa. Un attimo, prima di passare comunque ai commenti a questa polemica ridicola, sì. Di Harmony Korine sul nostro blog c'è un dossier, nel caso vorreste scoprire questo autore, proprio è stato scritto dal Monco, che mi sembra che il tuo giudizio sull'autore sia abbastanza positivo, cioè sì, sembra un bel registone, insomma, un buon esordiente. No, è il quarto film. No, è sì, un vabbè, pazzo. Nel senso... Sì, ma... è comunque un regista giovane, mi sembra di aver capito. Va per i 39, sì, comunque è giovane. È che è un pazzo, è difficile da dire. È molto autoriale, ecco, si capisce che è lui. Però... bisogna capirlo, perché vedere Gammo o Julian Donkey Boy ci rimani, la tua vita diventa pre-Gammo e post-Gammo, davvero, okay. È la tua visione del cinema. Ok, e vabbè, lascio a intrinseco il primo posto di sputatore di sentenze. Sì, più che altro non ho capito la critica, cioè... Sembra anche che Bellocchio abbia messo subito le mani avanti, detto, no, per carità, gli altri film sono bellissimi, probabilmente meritavano di vincere, cioè ci mancherebbe anche, insomma, sono due signori film, The Master e Pietà, però poi ha subito spiegato il problema, cioè il motivo per cui lui si è segnato, cioè che si devono risparmiare le lezioni di cinema agli stranieri, intanto no, perché comunque sono signori registi tutti, anche Mann a suo modo, quindi anche voce in capitolo la possono mettere, ma poi in che modo? Cioè, non ho, ammetto di non aver letto tutto, ma dov'è che avrebbero espresso giudizi di forma? Cioè, l'ho premiato, basta. Forse uno ha detto che è un film italiano che solo gli italiani possono capire, l'ho letto più di una volta. Questo film. Quello, credo. Sì, va bene, ma ha solo detto che è legata all'Italia, non era una cosa dispregiativa, a meno da come l'ho capito male. Sì, ha capito male anche come funziona il festival, cioè, ha capito male tutto. Davvero non mi spiego da dove nasca, lui ora la sta mascherando così, ma sembra proprio davvero il piagnisteo di un bambino che non riesce ad avere le caramelle, dice addirittura non partecipo più, non faccio più le trici, ma magari, perché questa generazione di registi, anche se ormai Bellocchio, cioè ormai, anche se Bellocchio era tra gli esordienti una volta, è una generazione che, soprattutto se deve fare queste figure, è meglio che si ferma. Più poi il film di cui parleremo dopo è quello che è, quindi insomma, io me ne starei zitto davvero e mi risparmio le figure barbine, cioè imbarazzante a livello internazionale e nazionale. Poi c'è anche chi gli dà spalla, come quello di cui parlava il Monco, e anche Gasparri, che vabbè, non ogni anno ha qualcosa da dire su festa, come se fosse una voce autorevole, no? Si lamenta di Cannes perché a Cannes non ci invitano, poi si lamenta di Venezia perché Venezia non vinciamo. Cioè, ma cos'è la partita in casa? Dobbiamo vincere perché sì. Cioè, a parte che qualche premio l'abbiamo racimolato, e di grazie, perché quest'anno potevamo essere snobbatissimi e sarebbe stato giusto. Davvero, io mi vergognerei, un po' mi vergogno. Cioè, e questi sono gli artisti, queste sono le personalità culturali di spicco. Ma vaffanculo. Che diciamo che tutto il polverone forse si è anche alzato perché il giurato in questione mi sembra che abbia sparato un po' a sventagliata un po' su tutti, perché non è che ha detto che Bellocchio ha fatto un film provinciale, ha detto in generale voi italiani fate film che capite solo voi e che va bene, insomma. L'ho sentita più volte quest'anno da più persone ma io quel programma di studi. Un'altra critica è la stessa cosa, è un tipo più italiano. Ti senti malissimo. E non è italiano, è per il... Pronto? Prima sentivo male voi, non so. Adesso invece stiamo a sentire male noi te. Sì. Ma se provo a cambiare connessione, ti si interrompe la registrazione? No, la registrazione continua a andare, poi ti rimetto dentro. Provo una cosa, perché sì. È dall'inizio che fa così. Se sentivo male voi, poi funzionava. Vediamo. Che se levato dalle palle quello? Beh. No. Ancora di sta. Ho sentito abbastanza piccato. Chi? Lui. Pensavo a un certo punto stava per decollare perché. Ah, no, pensavo. Di tono. Pensavo la... Okay. Cioè la qualità della cosa, dici? No, in generale si stava scaldando parecchio, l'ho sentito... Cioè, ah, allora per questo. Sentito particolarmente l'argomento. Forse adesso è un po' meglio. Ho cambiato antenna, non so. Vabbè, prova un po'... Ma prima, la parte che ho detto prima, si è sentita o è andato tutto? Più o meno da quando stavo a parlare io e tu sei un attimo intervenuto, quindi proprio quell'istante lì. No, quando dicevi che l'hai sentito più di una volta durante l'anno, sì, che nel programma di Giusti che faceva un po' da contenitore per tutto quello che è successo a Venezia, un'altra critica di cui non ricordo il nome purtroppo ha detto la stessa identica cosa, cioè che è un film proprio italiano, da italiano in senso dispregiativo, cioè che si vede, insomma, lo spirito è proprio ingenuo. E tra l'altro io ho letto una cosa del genere pure su un commento, non ricordo dove stava scritto, di un redattore di Cahiers du Cinéma, che diceva sì, aspetto il film di Bellocchio, perché comunque vabbè, è un autore la sua importanza, però la cosa che un po' mi infastidisce è che in Italia non esiste una scena, esistono film e vanno valutati singolarmente, quindi insomma... Il parere di questa provincialità del cinema italiano è abbastanza condiviso da tutti all'estero. Il fatto è che poi Bellocchio ha detto, sì, non mi si venga a dire, quello di cui noi italiani dobbiamo parlare. Però, visto il successo, come dicevo anche sul forum di Games Village, visto il successo recente di molti film italiani all'estero, basti pensare al trionfo di Ivo Gomorra, ma anche dopo al reality, insomma, ce ne sono stati di film che hanno avuto successo all'estero, anche Nanni Moretti con l'ultimo Abemus Papam. Quindi forse non è tanto un provincialismo di contenuto quanto un provincialismo di forma. Perché non lo so, da quello che ho sentito dalla tua recensione di La Bella Addormentata, mi sembra che lo stile sia abbastanza da fiction italiana. Sì, come molti drammi, film drammatici italiani, no? Sempre corali, sempre recitazione teatrale, insomma è una forma che ormai è canonica e a qualcuno piace forse, perché insomma tutti continuano a dire che questo è strano. Ci si sente un sacco di gente che dice però il film di Bellocchi è bellissimo, 16 minuti di applausi. Ora vorrei vedere, perché non c'ero, non metto bocca, se è vera questa cosa. Però cioè, questa gente che film ha visto? Sono quelli tipici che devono salvare il salvabile perché è italiano. Cioè, ce n'è di chi parla bene, eh. Io non lo so. Che poi è bello è che lo stesso Garrone ha sbugiardato tutti. Perché sì, così, vabbè, noi non è che dobbiamo ascoltare 16 minuti di applausi o altro. La giuria poi prende una decisione che esula insomma dai fischi o da eventuali applausi o dai commenti dei critici. Cioè la giuria è un mondo a parte in quel momento lì. Quindi erano 16 minuti di sollievo, gli applausi. Finito, vai. Sì. Non era un'approvazione probabilmente. No. Vabbè, insomma, non è che ci sta tanto da dire. Anche le parole del deputato del PDL, insomma, abbastanza cazzate su cazzate messe insieme, legate con l'accetto abbastanza sottile, insomma. Anche il fatto che a Cannes o a Berlino premino sempre e soltanto film nazionali, insomma, sì, ma che è una cavolata. Quest'anno i Taviani hanno vinto, il film di Moretti comunque se non vince viene stralodato, se non vince comunque perché c'è una bella competizione, non so, davvero non sanno di cosa parlano. Ma poi c'è proprio un teorema logico che dice che se Gasparri sta dalla tua parte hai torto, proprio non c'è scusa, è proprio così. Che poi tra l'altro leggevo un articolo su Bad Taste e faceva notare l'anno in cui partecipò in concorso a Cannes La Classe di Laurent Canté, sì, non so come si pronuncia, insomma, e fu snobbato. Era uno dei, diciamo, la punta di diamante, la punta di diamante della, diciamo, del filone francese che partecipava al concorso. Stesso discorso anche per La Sposa Turca di Akin. Di Akin, vabbè, insomma, anche quello film tedesco che partecipava a Berlino e fu snobbato anche quello, insomma, non è. Dimostrano questi fatti la leggerezza, insomma, delle cazzate che ha detto sto deputato, insomma, quindi non so quanto altro possiamo parlarne. Ma poi è una cosa che succede ogni anno, no? Ma no, ogni anno c'è una giuria diversa, non è che la solita ed è sempre i soliti che snobbano l'Italia, ogni anno c'è questo ricambio. Cioè, ogni volta andiamo a prendere quelli che snobbano l'Italia? No, non è che c'è un complotto. Ci sarà sotto qualcos'altro. Fate dei bei film. Se uno fa un bel film, batte tutti gli altri. Punto. Ma poi sembra che dalle parole del deputato sia trapelato più che altro un discorso politico, perché poi lancia la frecciatina al direttore del festival. Perché c'è, evidentemente siete voi che non sapete selezionare A, i film, B, i giurati, quindi penso che rientri tutto in un discorso più generale di lotta di potere, che francamente è meglio non addentrarci. Ma perché ti scomoda così tanto? L'hanno visto il film? Lo sanno che parla dell'eutanasia, loro che hanno votato in un certo modo e votavano in un certo modo, sono un po' confusi. Ma che poi mi sembra che il deputato del PDL medio della Bella Addormentata non ci fa una bella figura da quando... Ah no, appunto, quindi mi sa che proprio non l'hanno... è una cosa di principio, cioè il film è italiano e allora deve vincere. Vabbè, quindi insomma ci rammarichiamo del fatto che Bellocchio non parteciperà più a un festival. Noi volevamo invitarlo per il festival di Filmbusters che prima o poi metteremo in piedi. Sì. E vabbè, peccato, insomma, andrà così. Chiameremo Kinky Duke e gli facciamo cantare Larry Lang. al posto del film di Bellocchia. Ah, ecco, si dice Kim Ki-duk, basta dire Kim Ki-duk, signor Michael Mann, non è che dovete americanizzare, inglesizzare tutto, si dice Duk, punto, e dai. Ma si dice che Mann non volesse premiare lui, bensì The Masters, però che l'abbiano un po' frenato gli altri giurati. Ah, ecco perché sì. Per ripicca della papera, insomma. Ma se lo fa in inglese, uno che parla inglese lo capisco, ma se lo fanno tutti gli italiani che dicono duck, doc, cioè lì qualcosa non va, non è neanche un problema di pronuncia, è proprio... Cioè, sulla prima pagina del Corriere Online c'era scritto Duke senza ancora la K finale, D-U-C proprio, quindi figurati. Film in sala. Vabbè, niente, quindi immagino che le cose da dire sull'argomento si siano esaurite. Passiamo invece alla recensione di La Bella Addormentata, quindi in qualche modo ci ricolleghiamo a ciò di cui abbiamo parlato finora. E ce ne parla Intrinseo, che ha anche scritto l'articolo sul blog. Bravo! Oh. Non posso cantare la mia canzone, non ne ho una. Sì, dunque, abbiamo già anticipato con il discorso su Bellocchio, quindi diciamo che su quello evito di ripetermi. Bella Addormentata, questo film che erroneamente veniva presentato come un film su Eluana Englaro, poi è stato chiarito che è una vicenda che ruota intorno al fatto vero di cronaca, ed è fondamentalmente un film a episodi. Ci sono una serie di sottotrame, di personaggi che in qualche modo costeggiano la vicenda di Eluana Englaro nell'ultimo giorno, negli ultimi giorni comunque. E quindi c'è insomma l'episodio di punta, diciamo, che vede protagonista Tony Servillo, che interpreta appunto, diciamo, un senatore del Popolo delle Libertà, che sta proprio lì per votare in Senato il disegno di legge che in quei giorni era in discussione, quello sull'alimentazione artificiale, e sua figlia che a suo modo manifesta la sua posizione andando a Udine a protestare contro la scelta dell'eutanasia. È una persona che sembra molto religiosa, insomma, comunque posizioni antitetiche, perché lui, pur essendo un senatore del PDL, è, diciamo, favorevole all'interruzione del mantenimento in vita, insomma, artificiale, mentre lei è contraria. E intorno a questa storia, legate più o meno direttamente, corrono altre storie, come quella di questi due fratelli, di cui uno è interpretato da Fabrizio Falco, che è premiato, abbiamo detto, che accompagnato dal fratello più grande, va anche lui a Udine per protestare però a favore dell'eutanasia. E poi c'è un'altra storia insignificante con Maya Tanza e il figlio di Bellocchio, per Giorgio Bellocchio, che interpreta un dottore che cerca appunto di aiutare questa tossicodipendente che vuole smettere di vivere, quindi anche qui, diciamo, il tema è sbattuto un po' in faccia. E poi l'episodio un po' più sfacciato con Isabella Pert, che interpreta questa attrice teatrale che si butta a capofitto nella fede, nella religione, perché vuole che sua figlia si svegli, caduta anche lei in coma, non viene spiegato perché, se non sbaglio. E quindi, insomma, tutte persone che si trovano ad affrontare il problema della morte nei giorni in cui questo tema in Italia era più al centro della cronaca. E perché, insomma, ne parliamo così male? Perché è un film davvero goffo e sgraziato, è ecco, a partire dai nomi, non ne ho parlato, però neanche nella recensione, ci ho fatto caso dopo, perché nel film non vengono nominati molti dei personaggi, però hanno tutti dei nomi, cioè è una stilizzazione narrativa, il personaggio ha un nome che lo rappresenta, no? Cioè il dottore si chiama Dottor Pallido, io pensavo fosse una battuta, invece si chiama davvero Pallido, lo scopri dopo a casa su IMDb, cioè Maya Sansa è rossa, non so perché. C'è il senatore Beffardi, Tony Servillo, non so, la beffa di dover votare, non so. Poi c'è Isabella Pert, che è la divina madre, insomma, già da qui uno si fa un'idea di che film si tratti, no? Non è come Tarkovsky che fa i personaggi, lo scrittore, lo scienziato, il filosofo, no, è proprio goffaggine. Perché... Un po' come il villain di Mercenari 2. Esatto, il cattivo, il dottore, la morta. Sì, è una cosa veramente, diciamo, sgraziata. Eluana, che nome è? Infatti, insomma, Englaro, non può essere un nome vero. Insomma, il problema di per sé è che si tratta di un film che parla di un tema importante. Io non sono il tipo che evita di parlare dell'argomento Spinoza, è giusto metterlo al centro, sono anche quello che fa ironia nera quando serve, però mi rendo anche conto che se uno deve parlare di eutanasia, soprattutto se uno vuole parlare a favore o comunque educare lo spettatore su un argomento del genere, deve usare una certa cura, una certa attenzione, deve presentarlo bene. Invece il film è una barzelletta, cioè i personaggi sono pro o contro, cioè senza sfumature. Sì, c'è il tentativo di inserire sfumature, ma non funzionano, cioè sono proprio schieratissimi, è un po' manicheista come rappresentazione. E poi ecco questa cosa del tipica del cinema italiano, dicevo, la solita struttura corale. Adesso non mi vengono in mente altri esempi, però insomma è la sensazione che hai vedendo il film, è che è la solita cosa, tanti personaggi, perché il dramma è italiano, deve essere italiano, allora dobbiamo spezzettare, dobbiamo far vedere che colpisce tutti senza distinzione. E invece forse sarebbe stato meglio appunto sceglierne una di queste storie e raccontarla come si deve, andare a indagare, cioè cosa significa per una persona scegliere tra la vita e la morte, l'accanimento terapeutico, insomma dagli lo spazio che serve, non le storielle, perché sennò non sai come tirartene fuori. Cioè davvero a me sembra la palissiana, cioè non credo sia una scelta artistica, è proprio una scelta di convenienza. E poi l'ultimo problema, il più grave, è l'interpretazione che questi personaggi, questi attori danno. Cioè sono tutti, se non vengono dal teatro, comunque hanno subito influenze teatrali, e quindi recitano in questo modo, cioè molti gesti, molta impostazione, troppa impostazione, quindi il volume che si alza inspiegabilmente, cioè questo dover trasmettere l'emozione non attraverso i gesti o il modo di esprimersi, ma attraverso il volume della voce. Era una cosa proprio tipica di questi drammacci italiani, no? Bisogna urlare, siamo male, siamo disperati, non sappiamo che fare, dobbiamo urlarlo in faccia. Quindi tutto urlato, tutto didascalico, tutto brutale, cioè sembra eccessivo come aggettivo, ma è brutale. Parli di questo argomento e lo maltratti così, e poi hai il coraggio di lamentarti, di dire come io faccio un film sull'eutanasia. E tanto più, fai un film sull'eutanasia, stai attento a dove metti i piedi. Cioè, non puoi prendertela perché ti dicono come fare cinema, se non sai fare cinema. Questo è dilettantesco come film. Cioè, Bellocchio sarà stato anche promettente negli anni d'oro. Adesso è, se questo è quello che ha da offrire, ben venga, se ne stia lontano dai festival, se ne stia lontano dalle lezioni di cinema, perché questa è roba da fiction, è roba che puoi mettere in televisione e vendere alla casalinga che alle 7 di sera sta lì a guardarla, ma non testa bassa e silenzio, per favore. Diciamo che ha detto cose più interessanti sull'argomento Eastwood con un film sul pugilato. Esatto, sì, totalmente. Ma anche quel film che abbiamo visto a Locarno, qualche ora di primavera, perfetto, era semplicissimo, delicatissimo, sì, ci stavo un po' attento a dove mettere i piedi, era cauto, però cazzo ne parlava, c'era un'evoluzione dei personaggi, c'era una storia solida, interessante, emotivamente forte, e tu te la godevi. Questo è un tormento, e lo dico io che comunque non lo sono visto tutto, ma c'è la gente che abbiamo visto, io e il Monco, ha abbandonato la sala dopo 20 minuti, meno anche. Vabbè, ma dei deficienti, dai. L'avrei fatto anch'io dopo un'ora, cioè un'ora dopo, perché effettivamente è pesante, è retorico, è brutto, è noioso, è veramente insignificante. Quello l'hanno fatto nel modo sbagliato per il motivo sbagliato, ma è uno di quei film in cui non mi sarei sentito in colpa alzandomi e andandomene, perché è una presa in giro a me e anche a chi è direttamente coinvolto in queste cose. E non so, il Monco, se vuole aggiungere qualcosa per convincere Bellocchio a non ascoltarci più. Sì. Già non lo facevi, Bellocchio, quindi te le meriti queste critiche. No, la gente si è anche lamentata perché insomma Eluana è già in coma e non si vede neanche quando tocca lo spillo della strega e rimane addormentata, no? Come la favola, quindi hanno detto, questo non è mica, cioè una rilettura personale della favola Disney, vabbè, quindi non l'hanno proprio capito. Come abbiamo discusso dopo la visione fuori dal cinema, io intrinseco la pensiamo uguale, non riesco a aggiungere nient'altro, insomma, a parte citare qualche bella parte del film, tipo Rosa, perché non entri nei miei sogni? Rosa, vuoi entrare nei miei sogni? Questo è il fratello che parla con Rosa, la figlia di Isabella Per, che è in coma. Oppure, non so, la gente che entra nell'ospedale, che non è quello di Eluana Englaro, ma entra e alza tutti i lenzuoli per guardare sotto i pazienti, che sono tutti vestiti come se fossero lì in posa. È strano anche quello, alzano tutto, e dov'è, dateci Eluana, lasciatela vive questa perché qui, i figli della, no, della signora anziana che è lì, che guardano squadrati il dottor Pallido, ricordiamolo, e dicono: voi dovete renderci conto, questa donna sola in ospedale, ce la rimandate a casa, la sanità italiana è una vergogna, cioè una cosa imbarazzante. Poi la rappresentazione del PDL, come diceva la recensione, va bene parlarne male, sono imbecilli molti di quelli che militano, sembra una generalizzazione, ma ne vediamo, l'abbiamo la prova tutti i giorni, ma rappresentarli così, i cattivoni che si lisciano i baffi, guarda, i cittadini protestano, ma tanto non contano niente, cioè è una cosa veramente che ti fa sentire male, sembra proprio un pretesto che puoi dare a quelli del PDL per dire, ecco la sinistra, cioè, davvero, è controproducente, è un'arma a doppio taglio, perché se rappresenti così il cattivo e lo fai come un cattivo da film, allora poi lui può dire vaffanculo, ma che modo è? Imbarazzante. Sembra scritto da uno, non un intellettuale qual è Bellocchio, ma un ragazzetto che ogni tanto legge Repubblica, ed esclusivamente Repubblica o Il Fatto Quotidiano, e da lì dice, guarda, Berlusconi li ha salvati dalla galera, sono tutti criminali, quindi allora io faccio un film dove sono tutti criminali e lo sottolineo. Poi loro sono tutti brutti e non gliene frega niente del popolo. Allora gli metto una frase in cui lo dicono, fanno pose fasciste e io li metto in pose fasciste. Generalista, è brutto, passi appunto dall'altra parte con una critica del genere. Sei un pirla. Vabbè, direi allora di passare avanti perché... E poi è artificioso, e sapete, a me piacciono quelle cose vere, tipo il finale di Dirty Harry, questa è un'altra cosa, è una citazione, niente. Va bene, io dicevo, passiamo ad altro perché mi avete messo una voglia di andarlo a vedere, quindi prima andiamo è meglio. Allora, in scaletta, dopo La Bella Addormentata, abbiamo Eva, un film di fantascienza europeo, e ce ne parla il Monco, che anche lui ha scritto la recensione. Evviva, l'avete letta, non l'avete letta? Allora che ve lo dico a fare se non l'avete letta. Eva, siccome è la puntata con la B, lo chiameremo Beva. Che è un'esortazione, Beva. Beva, sì. Infatti nel film viene detto più volte, Beva. Allora, primo film della storia della Spagna che tratta il tema dei robots, anche qui molte B. E insomma, il protagonista è questo Alex Grevel, che ritorna in Spagna dopo parecchi anni, gli viene commissionata la creazione di un robot libero, cioè un robot più possibile simile all'essere umano, con tutti i difetti possibili, ma con tutti i pregi soprattutto, quindi un libero pensiero, capace di provare emozioni, e, insomma, appunto il più possibile simile all'essere umano, e lo vuole creare dall'età più o meno 10-12 anni, quindi deve scegliere un modello a cui ispirarsi. Tutti i bambini che gli vengono proposti sono delle schiappe, sono noiosi e a lui non gli piacciono, e un giorno si imbatte in questa Eva, questa ragazzina figlia di suo fratello e di una sua ex fiamma, e anche se trova che i genitori non vogliono che lei venga presa a modello, lui un po' segretamente incomincia a modellare questo robot sulle sue fattezze, sui suoi caratteri. Tecnicamente vado breve perché ormai è uscito da settimana, l'hanno visto in due, ormai credo sia già stato tolto perché continua a uscire un mucchio di roba. Niente, tecnicamente molto buono. Sti spagnoli non sono bravi solo negli horror, adesso fanno bene anche la fantascienza, li possino. Ci sono delle ottime riprese, c'è una regia niente di che, però è molto buona, è molto classica, non ha cadute di stile né niente. C'è chi ha trovato un po' noiosa la seconda parte, ma io non penso, non è così. Più che altro è noiosa perché il colpo di scena, che spero non sia voluto, non sia proprio un vero colpo di scena, è così banale che lo riesci a capire già dalla locandina. Quindi qualcuno avrà vissuto il film solo nell'attesa del colpo di scena confermato, ecco. Purtroppo non dice niente, non aggiunge niente ai classici film sui cloni o sui robot, non aggiunge proprio nulla, cioè dice sempre le solite cose, i robot non hanno emozioni, i robot di qui, i robot di là, vabbè, niente, è un filmetto, va bene, vale una visione, non è niente di che. Però mi era interessata moltissimo una recensione che avevo trovato di un certo Giuseppino Giustino, che dice: se riflettiamo bene, questo è un film nazista, bel film, ma sottilmente perverso. Ragionate un poco, i robot vengono in realtà mostrati come esseri talmente capaci di coscienza da essere esseri umani. Ora, se hanno coscienza, allora sono esseri umani, si ripete anche. L'idea di poterli sopprimere, perché non giusti, nonostante i sentimenti, è pare quella di un'eugenetica che portava a decidere quella sorte altrui in nome di una perfezione intellettuale, religiosa o filosofica. E poi continua, insomma, è stato perculato da tutti. Grandissimo Giuseppino Giustino. Grande, grande. Vabbè. Trizio l'ha visto? No. No, avrei voluto, per limiti tecnici non è possibile. Mi dispiace che, come dico sempre, la Spagna la adoro, perché non ci adottano cinematograficamente? Invece, sì, fanno i filmetti di genere, però cazzo, li facessimo anche noi così. Ce li sogniamo, una volta facciamo la roba, adesso non possiamo neanche mettere bocca. Non ricordo chi di recente diceva che sì, Spagna e Francia hanno una tradizione, diciamo, meno importante della nostra riguardo i film di genere, eppure comunque stanno sfornando uno appresso all'altro film di genere fantastici. Quindi noi dovremmo solo rimboccarci le maniche invece andarci a lamentare ai festival, no? La Spagna è in crisi quanto noi, quindi. Appunto. E vabbè, quindi allora passiamo invece a Baby Call, un film su bambini e aggeggi elettronici. Ce ne parla intrinseco. Mamma, che ha scritto anche lui la recensione. Beh, è tutto così. Leitmotiv del giornale sarà la B, e che ha scritto anche lui la recensione. Perfetto, ricordiamo. Incidente. È la domanda bonus della puntata. Qual è la lettera? Sì, ma è un colpo al cuore, perché oddio, non è nulla di che, però avevo sviluppato delle attese per questo film, ci credevo. Volevo anche approfondire il regista, ma mi sa che mi fermo qui. No, non è drammatico come Bella Addormentata, ma deludente alquanto. Allora, ne abbiamo parlato già per il trailer, Baby Call di Pal Sletaune, con una delle mie favorite, Non mi rapace, insomma, favorita di molti. È un thriller nordico, credo svedese, qualcuno ha messo norvegese, ma se non sbaglio, appunto, lei svedese, lui svedese, comunque. Un thriller soprannaturale, ma insomma c'è un po' di confusione anche da parte del regista, non sa prendere una decisione. Racconta la storia di questa Anna, che è una donna in fuga da un marito violento che in più volte ha minacciato l'incolumità del bambino, insomma, di questo Anders, e quindi sembra ci sia stato un processo e la madre in qualche modo ha ottenuto l'allontanamento del marito, e si sposta in una nuova città, in un condominio squallidissimo che mi ha fatto un po' pensare a Darkwater, ad un po' da invidiare a Roosevelt Island, ma insomma ci siamo. E solo che questa donna chiaramente ha subito negativamente l'influenza di questi gesti del marito, diventa paranoica, non lascia mai stare il bambino, non lo lascia mai uscire, lo fa dormire nel suo letto. Poi, spinta dai servizi sociali a dargli un po' di guinzaglio, insomma, compra questo Baby Call, che dà il nome al film, ma è mai nome fu più, mai titolo fu più, più inappropriato, e comincia a sentire dei suoni, delle urla di un altro bambino che non è il suo, quindi da un altro appartamento, forse nello stesso palazzo, forse no, insomma. Lei che si stava tranquillizzando sente questa cosa e perde definitivamente la ragione, comincia a sentire, a vedere cose che non sa se sono vere, non dorme, quindi riconduce tutto alla mancanza di sonno, tutte queste situazioni ambigue, e neanche il rapporto con un negoziante che si chiama Helge, che sembra anche attratto da lei, sembra risolvere le cose, insomma tutto precipita, è un thriller soprattutto perché c'è questo senso del pericolo costante, però è molto debole e la parte soprannaturale è esilissima, non c'è uno sviluppo, non sembra che il regista non sappia prendere una direzione precisa, ci sono elementi soprannaturali che vengono buttati lì nel mucchio e non sviluppati, c'è una parte thriller appunto debolissima, tutto piatto, tutto stanco, sembra, a me piacciono i film nordici, c'è questa fotografia, questo colore, i toni un po' freddi, però non fini a se stessi. Invece qui siamo tutto invece sintomo di una povertà di idee in generale, è tutto davvero povero, la sceneggiatura è elementare, tutti i buoni presupposti che incuriosiscono si sfumano dopo pochi minuti, è una storia elementare, una ghost story banalissima di quelle americane proprio, girata in Svezia senza nessun vezzo registico, nessun estro creativo, non so, proprio film davvero povero, eppure stranamente non voti altissimi, ma comunque recensioni buone se ne trovano, è incomprensibile, non so, di una piattezza sconcertante, peccato. Ma dove è finito l'altro? Cacchio, indovina un po'? Al CES. No, avevo premuto il pulsante del... Cosa? Del muto sul microfono. Ah. Vabbè. Cioè, ho il dito sul pulsante fatale. Mamma. Cheat! Chi? Lo uso sempre, chi? Chi ha rubato la mia dentiera? Allora, vabbè, Monk non so se l'ha visto, vuole commentare ulteriormente. Io non ho limiti tecnici, ma dopo che Intrinseco me ne ha parlato malissimo, ho detto poi lo vedo e non l'ho visto. Insomma, è un podcast di scoraggiarsi a vicenda. Sì. Cosa non vedete? Fatevela chiare. Ok, allora passiamo invece a... la faida? Volevi aggiungere? Faccio la faida e poi me ne vado, perché è finita la mia puntata. No, Ribelle Brave. Ah già, un altro film di albanesi. Va bene. La faida, film albanese, poche pretese. Un film che credo che non abbia visto nessuno. No, la comunità albanese l'ha visto, perché ho letto vari commenti in cui dicono sì, c'ha ragione sto film. E quindi rafforza la tesi che è un buon film e parla molto bene dell'Albania di oggi, ma comunque l'Albania dell'ultimo secolo, perché le tradizioni sono quelle, non è cambiata molto. E la faida, di chi parla? Di Rudina e Nick Manofredda, no, è un altro Nick questo. Sono due teenager, mi sembra uno di 16, Nick che è più grande e Rudina più piccola di 14, che passano, cioè stanno vivendo la loro adolescenza nel modo più normale possibile. Nick ha un sogno che è quello di comprare un internet shop, non so perché, credo che sia un fallimento enorme visto che ormai internet ce l'hanno tutti. No vabbè, in Albania non è così. E invece Rudina coltiva il sogno di un giorno andare a fare l'università anche all'estero, non è un problema, e la loro quotidianità viene sconvolta da una violenza, cioè il padre, il loro padre e lo zio a quanto pare ammazzano un uomo di un'altra famiglia con cui erano in lotta da tempo per un passaggio sulle terre, siccome sono tutte famiglie di contadini, lo zio e il padre dovevano passare su una sua terra e questo qui gli faceva le peggio cose, gli chiudeva il passaggio, gli metteva tasse, insomma la violenza era nell'aria. E appunto viene ucciso quest'uomo e secondo le regole, secondo la tradizione albanese, c'è una sorta, ci deve essere una sorta di vendetta, anzi una vendetta vera e propria, dente per dente, occhio per occhio. Voi ci avete ucciso un membro maschio, noi uccidiamo un membro maschio della vostra famiglia. Quindi sono obbligati a stare chiusi in casa tutto il tempo, guai uscire perché sarebbe, come dire, un'offesa verso la famiglia avversaria, farsi vedere in giro come se non fosse successo niente, e bisogna aspettare che la situazione si sblocchi, quindi venga chiamato un mediatore che aiuti le famiglie a trovare un accordo finanziario, insomma qualcosa che riesca a sbloccare la situazione. La faida è comunque una cosa quotidiana in Albania, ho letto, ne succede praticamente una al mese, e a volte durano anche 6 anni, come viene detto nel film. C'è gente chiusa in casa che non può uscire per 6 anni interi, è una cosa incredibile, sembra di stare nel Medioevo, anzi peggio, l'età della pietra. E però è così, è una cosa appunto normalissima, ci sono delle regole, se non mi sbaglio si chiama il Kanun, che è questo insieme di regole che devono essere rispettate, ce ne sono tantissime. Ecco, una cosa è, i membri femminili della famiglia possono girare, possono andare a fare spesa, sono liberi, insomma, anche se nel film viene detta una cosa e poi succede un'altra. Insomma, la madre dice che perderebbe il lavoro, però a quanto pare lei è libera di andare, ma il regista si dimentica completamente di lei, cioè scompare, quindi vabbè. E insomma, la faida, a parte parlare dell'Albania di oggi, parla anche dell'immigrazione. Come mai tanti giovani se ne vanno ancora dall'Albania? Non è solo un problema economico, è anche un problema come questo, c'è una tradizione, una cultura che ti porta al massacro, e meglio andare via, lasciare questo terzo mondo. È molto neorealista, molto pesante, insomma non è un film di intrattenimento. Il regista è Joshua Marston, conosciuto più che altro a livello televisivo perché ha collaborato nelle migliori serie TV in circolazione: The Good Wife, The Newsroom, quella che adesso è di punta, Six Feet Under, In Treatment, eccetera. Il suo unico film, se non sbaglio, proprio l'unico lungometraggio è comunque il notevole Maria Full of Grace. E, insomma, personaggio interessante questo Marston, nasce come fotografo, ha girato il mondo, è diventato professore di inglese a Praga, ne ha fatte di tutti i colori, conosce molto bene il mondo, conosce le realtà minori e riesce a rappresentarle magari sempre in chiave di tragedia, perché anche Maria Full of Grace non è che era un bello spot per la Colombia, però sono degli ottimi film. È consigliatissimo questo La Faida. Volevo fare una domanda io, ma lo dicono mai spacco bottiglia, ammazzo famiglia? Paese romeni. è vero. Ah, sì, è proprio specifica, non sapevo. No, comunque è vietato dal Canon dire una cosa del genere. Okay. Il qualunquismo di film Busters, ragazzi. Vabbè, passiamo allora al prossimo film. Arriva il momento di blockbuster e quindi tocca a me, perché io sono un uomo dai gusti pessimi che gli piacciono ste robe de sparà. E allora parliamo di The Bourne Legacy. Come sicuramente va suggerito il nome, il titolo di questo film, parliamo del quarto episodio della saga di Jason Bourne. Si tratta però di uno spin-off in questo caso, perché Greengrass ha deciso di non dirigere un ulteriore film della saga, e diciamo in un certo senso si è portato appresso anche Damon, che ha posto le condizioni che senza Greengrass non avrebbe partecipato alla realizzazione del film. Fatto quindi questa premessa, i produttori hanno deciso di affidare la sceneggiatura a Tony Gilroy, che appunto era sceneggiatore anche degli altri film. Tuttavia, in quei casi si faceva riferimento ai romanzi di Robert Ludlum. Questo spin-off invece è una storia totalmente autonoma dalla serie di romanzi, parla appunto di un personaggio diverso, e la trama corre parallela all'ultimo film della saga di Bourne, ovvero The Bourne Ultimatum. In breve, il protagonista è tale Alex Cross, interpretato da Jeremy Renner, e le sue guanciotte. Aaron Cross. Ah, Alex, ho detto? Sì. Ah, perché dovrebbe uscire durante l'anno sì. Film si chiama Alex Cross, quindi sì, c'è un po' di confusione. Immagina se chiamano questo Aaron Cross invece di Bourne, sarebbe stata un trionfo di confusione, insomma. E sì, dicevo, quindi Aaron Cross, interpretato, dicevamo, da Jeremy Renner. E quindi, allora, nel terzo episodio della saga, Bourne si divertiva a smantellare i due programmi, Treadstone e Blackbriar, e quindi, insomma, faceva venire a galla le varie, insomma, nefandezze del governo statunitense. A farne le spese non erano soltanto, appunto, i capoccia della CIA, ma anche un altro programma, appunto Outcome, di cui fa parte appunto questo Aaron Cross, e quindi per la presenza su internet di un video compromettente che metteva in relazione il progetto Treadstone, che era stato appunto scoperto, come abbiamo detto, e questo progetto Outcome, le sfere alte della CIA, decidono quindi di sopprimere Outcome dalla radice, e quindi iniziano a dare pasticchette gialle a tutti i loro agenti. La particolarità appunto di questo programma è che i potenziamenti fisici e psicologici venivano appunto forniti tramite l'ingerimento delle pillole, mi pare pillola verde per le proprietà fisiche, pillola blu per le proprietà intellettive, o il contrario, insomma. No, giusto. Ok, e quindi niente, insomma, iniziano a sopprimere il programma dalla radice, appunto eliminando sia gli agenti che i ricercatori. Questo Aaron Cross invece ce la fa a sfuggire all'omicidio, e cerca di rintracciare l'unica ricercatrice che si è salvata dal massacro, tale dottoressa Schering, interpretata da Rachel Weisz. Insomma, vabbè, non sto qui a raccontarvi tutta la trama, a spoilerarvi tutto. Fatto sta che ovviamente la troverà, nascerà un amore e vivranno felici e contenti con un sacco di figli. Allora, diciamo subito che secondo me ha più la sceneggiatura di questo solo film è più lunga di tutte le altre sceneggiature di tutti e tre i film messi insieme. Ci sono molti più dialoghi, è molto più verboso, a qualcuno può piacere, ad altri no. A me sinceramente questa piega che ha preso la saga piace, perché comunque mi piacevano anche i film di Greengrass, però diciamo che Greengrass c'ha sempre un po', soffre sempre un po' dell'effetto film fiammifero, nel senso che brucia per la sua durata, poi però fondamentalmente te ne scordi dopo due giorni. Questo è un po' più verboso, è un thriller che diciamo si prende dei tempi più lunghi, un ritmo più compassato, ma che comunque non annoia, perché trova comunque il tempo di gettarci in mezzo un paio di sequenze d'azione comunque ben girate, a parte l'ultimo quarto d'ora, ragazzi, saltatelo di uscite prima, lasciate perdere, quindi siete avvertiti. Però per il resto, ad esempio, c'è la scena dentro la casa, tutta quella sequenza è molto ottima, sì, molto bella, crea la giusta tensione, si spara pochissimo praticamente, per gli standard della saga di Bourne, insomma. Beh, ma insomma, anche Bourne usava più le mani, no? Lo so, però è proprio il ritmo in generale. Sì, sì, in effetti si spara meno, cioè gli altri sparano meno anche. Sì, no? Quella scena è molto bella, e lì sembra anche che riesca un po' a fare il verso a Greengrass, tutta la scena vera e propria in cui Aaron esce dalla cantina, sale sul tetto ed entra, questa telecamera che gli sta dietro incredibilmente, non so come ha fatto, ha usato un dolly e poi è sceso, ma ha fatto davvero bene, lui che entra e spara, ottimo, lì si vede anche che volendo un regista che potrebbe avere potenziale. Sì, E niente, poi insomma, in generale però come scrive la recensione è più un action thriller che si gioca nelle, diciamo, nelle stanze del potere, perché in un certo senso gran parte della durata del film è dedicata al personaggio di Edward Norton, insomma, che cerca di rintracciare Aaron Cross e che un po' fa il verso a David, come si chiama? L'attore che interpretava il capoccia della CIA negli altri Bourne, David Strathairn, una cosa del genere, mi pare. Insomma, sì. Lo stesso attore che interpretava anche Marrow nel film di George Clooney. David Strathairn, ok, vedi, ce l'ho quasi vicino, insomma. La prova di Edward Norton, insomma, ho sentito peste e corna di questa performance, sinceramente non, senza infamia e senza lode, fa il suo, è bastardo giusto e si attira un po' le antipatie dello spettatore in maniera adeguata. Ciò che conta è che comunque il film si regge in piedi, sebbene la piega che abbia preso è diversa dai film di Greengrass, è divertente, è abbastanza intrigante. Certo, la tematica, insomma, del controllo della privacy che viene violata regolarmente dai governi ormai è un po' abusata, però comunque in questo senso è intelligente Gilroy nel fornire una diversa prospettiva sull'invincibilità del personaggio, che appunto è collegata all'abuso di farmaci e che quindi, insomma, il controllo di questi superagenti avviene proprio attraverso la pressione psicologica dei farmaci, che nel film si scopre poi che è un placebo, perché effettivamente i potenziamenti si possono rendere permanenti, ecco, attraverso l'utilizzo di un virus, però insomma non spiego ulteriormente le meccaniche che ruotano intorno a tutta questa cosa qui, insomma. E dicevamo, l'ultimo quarto d'ora è da evitare, perché se effettivamente in un paio di sequenze Gilroy riesce a scimmiottare bene Greengrass, nell'ultima sequenza uno non si capisce niente e due viene introdotto, diciamo, un Deus Ex Machina che secondo me funziona poco, anche perché spunta, vabbè, lo diciamo, spoiler. No, dai, non so, non lo può. Vabbè, insomma, non credo sia necessario, diciamo solo che non funziona. Sì, no, in effetti non è neanche un grosso colpo di scena, proprio perché è brutto, ma poi perché non smuove niente, è inutile. Sì. Sì, no, appunto, sembra proprio, cioè, l'ultima risorsa, buttiamo nella mischia sta roba qua, però. Ma anche per riprodurre un po' la meccanica dei film precedenti, no? C'è Treadstone, c'è Blackfyre. No, esatto. Quindi c'è anche qui una nemesi, solo che te la menano per 20 minuti dicendo quanto sono terribili, io non lo sapevo, sono terribili, e poi arriva e dura 3 secondi la scena, cioè te lo bruci, non so, potevano tirarlo fuori prima e rendere un po' più... Mi sembra che se ne dimentichi per larga parte del film comunque di questa cosa qui, insomma. Sì, sì, è proprio una brutta scelta di sceneggiatura, cioè al momento giusto ma nel modo sbagliato. Mentre invece mi sembra di ricordare che in The Bourne Supremacy, che è il secondo episodio, il nemico, insomma, di Matt Damon, che era quello che ha interpretato il Signore degli Anelli, Eomer. Sì, sì. Sì. Che non, beh, io conosco oggi come ogni altro giorno, insomma. Fatto sta che comunque ha molto più spazio anche all'interno del film, insomma, è dall'inizio che si mette alle calcagna di Bourne e cerca di braccarlo in qualsiasi maniera. Qua, insomma, si butta alla fine questo elemento qui, lo si butta nel mischione. Ricorda un po', non so se ti ricordi, il primo personaggio di Clive Owen, se non sbaglio, anche lì veniva tirato fuori un po' per la coda, no? Però non così male. No, non così, sì, no. Però nel senso sembra un po' con lo stesso problema. Sì. In effetti invece quelli di Greengrass c'era un po' più di armonia. Però non lo so, fondamentalmente al di là di questo, non, cioè, secondo me non rovina tutto il resto, che comunque ha una... è un film, diciamo, di buona qualità e soprattutto è un film che sembra di Gilroy, effettivamente. Dicevo anche in sede di recensione, è esattamente quello che ti aspetteresti dal regista di Michael Clayton, insomma, una roba più verbosa, e, ma non per questo meno appassionante. Sì. Ma quindi a me è piaciuto. È una sì. storia di un, normalissima di un poliziotto. Sì, sì, sì. È fatto. Di un poliziotto cocainomane. Ah, ecco. È qua. Pillola sì. rossa, pillola blu. A me è piaciuto, non si dovrebbe dire, nel senso che non è una cosa buona, però, cioè, come hai detto tu, come ho già detto quando abbiamo parlato dei trailer, c'è stato questo cambio di regia, cambio di cast, quindi praticamente hanno dovuto risolvere tutto in poco, no? Però, cazzo, bravissimi, nel senso che hanno tirato fuori, non è nulla di trascendentale, però lo è nel contesto, cioè, hanno tirato fuori una storia parallela che si lega molto bene alla principale, ed è autonoma, cioè, potevano mandare tutto in... per dirla in pacca, però invece funziona bene perché comunque è quasi parallela a quella di Bourne, sì. ed è bello che si crei, cioè questa eredità non è una cosa buona, sono le conseguenze di quello che ha fatto Jason, solo che il protagonista ne paga appunto le spese, non è un'eredità lasciata, è un'eredità che lui si ritrova a suo malgrado, cioè quello che ha fatto Bourne, senza spoilerare, sono i primi minuti, ha ripercussioni, insomma, esatto, sì. spinge a cancellare Outcome, come hai detto tu, sì. e quindi devono ammazzare tutti, e Cross si trova a suo malgrado a dover vestire i panni di Bourne, e beh, funziona bene, perché la costeggia, ma non ci si appoggia mai troppo, ecco, forse l'unico problema è che poi era quasi inevitabile, cioè è troppo... non verbosa, ma nel senso è un po' ricorrente il tema del film, abbiamo capito che quello che è successo, però sembra che vogliano spiegarlo a chi non ha visto la trilogia, però glielo vogliono spiegare tre volte, quindi ogni volta devono dire cos'è Treadstone, cos'è Blackfriar, era chiaro nei primi minuti. Però nonostante questo io mi sono trovato un po' disorientato in certi frangenti, perché spesso ci mette il riferimento ai film precedenti e sinceramente io non è che me li ricordassi così bene. Ah, i personaggi, certi riferimenti, sì, no? Io parlo proprio dello spiegare cosa è successo, cioè sì, sì, sì. ci sono questi progetti segreti, ok, lo dicono quattro volte, serviva, poteva accorciare di quei 10 minuti che avrebbero reso tutto un po' più interessante, solo sì. questo, ma in generale è buono perché è un, nonostante i punti di riferimento, è un film che può godersi benissimo chi non ha mai neanche visto o letto nulla di Bourne. Va bene, lo vedo, lo vedo. Funziona abbastanza infatti... bene, cioè non è tutto nuovo, no? È parallelo, c'è un legame, ma quello che devi sapere te lo dicono subito, quindi sì. Poi lì piena libertà e lo sviluppo è autonomo, bello, bello. Infatti io sono rimasto stupito quando ho scoperto che non c'era un romanzo dietro, perché effettivamente è ben costruito e si incastra benissimo, come dicevi tu. Quindi magari che ci fosse una base sembrava quasi ovvio, invece non c'è, e bravo Gilroy, insomma. Sì, e in poco tempo, con pochi mezzi, poca fiducia da parte dei fan, invece comunque sta andando abbastanza bene, mi pare. Ecco, sì, visto che dobbiamo parlarne, la scena finale, non è tanto il fatto in sé, perché l'azione ci voleva, il gran finale lo devi fare, però ecco, è così improbabile quello che succede, che stona... con la relativa sobrietà di quello che c'era prima, che sì, c'era qualche scazzottata, però era davvero composto come film. Cioè lui sì, è un super soldato, ma non ti fa queste cose improbabili. Poi sembra strizzare l'occhio male al primo film, no? La discesa sulla scala con la Mini, qui la fanno con la morte di una scena orribile. E davvero lì sembra, come dicevi tu nella recensione, sembra che l'ha dovuto fare. Perché davvero è un antipo di azione diverso da quello che ha messo in scena prima. Cioè la scena in casa è davvero ottima, stabile, cioè poco movimento, ma quando c'è si vede, come appunto quella scena della finestra, lui che entra in un attimo e la telecamera lo segue spalla a spalla, è davvero ben fatto. Invece qui, boom, la cacciara, la moto, la contromoto, la fuga, sì, un peccato perché, insomma... una giustatina, ecco, un contenersi un po' su quelle piccole cose, ecco, usare meglio questi Larks 2, che immagino fossero una cosa che volevano usare più per i film successivi, perché come dicevamo, cioè, la tirano fuori così al photo finish e non serve a nulla, cioè poteva benissimo non esserci questo personaggio, perché ha un peso irrilevante ed è, siamo un imbecille. A me mi ha quasi annoiato la parte, cioè. Sì, sì. È calata veramente l'attenzione. Anche perché a me piace quando fanno vedere invece le scene alla CIA, che pianifica molto quello che fa. Cioè, sì, Aaron ha poco tempo e spacca tutto, tra virgolette. Loro invece pianificano tutto, no? La Jeep dov'era, il film, è bello, ti fa sentire dentro il meccanismo del pedinamento, davvero appassionante quello. Cioè, un thriller onesto, thriller action. Fatto sta che è un peccato che sia stato stroncato sì, oltreoceano. Diciamo già quando abbiamo parlato del trailer che è stato stroncato soprattutto perché è diverso da quello di Greengrass, ho capito, però solo dargli un titolo diverso, che questa cosa è un film su Bourne ma non c'è Bourne. No, non è su Bourne. Appunto, sì, è un'operazione commerciale, perché quando devi fare un film per forza, come in questo caso, lo è. Però dai, quando uno vede qualcosa di decente, perché non riconoscerlo? Qual è il problema? Diciamo che è stato venduto anche un po' male, perché la percezione del pubblico è che hanno cambiato l'attore di Bourne e sì. Secondo che la cosa non funziona. Ma invece no, è un personaggio nuovo che va bene. Sembra un po' riproporre, più che uno spin-off, io lo vedo come un reboot, anche perché sicuramente faranno dei seguiti. Sì. Ma anche perché c'è un tentativo di chiudere il cerchio, ma di riaprirlo. Cioè, sono molti punti in comune col primo, che non era di Greengrass. Cioè, sì. C'è molta, no, anche il rapporto con la donna, che poi si perdeva nei film successivi. Tra l'altro, sì. Non serve neanche dirlo, ma Rachel Weisz bellissima in questo film, con gli occhiali da scienziata, da dottorino, è bellissima. Lei è sempre bella, stavo per chiederlo. Qui mi è piaciuta ancora di più, questo look un po' così, da scienziata, le dona molto, io sono... No, ma anche lui comunque, nonostante le guanciotte, ha assolutamente la fisicità giusta per interpretare un ruolo del genere, ma soprattutto c'è una presenza scenica che secondo me è anche maggiore di quella di Matt Damon. Sì, che sembra un po' troppo un bambino, anche sì. ha un viso troppo angelico, tra virgolette. Invece Renner è un ragazzaccio del sud, ha la faccia sporca, ecco, non so, mi sarebbe piaciuto vederlo senza pillole, visto che dice che praticamente è un ritardato. Sarebbe stato bello vedere il film solo col potenziamento fisico. Dottoressa, devo fare? Ecco, tra l'altro, una cosa che funziona, ad esempio, che non sempre invece funziona in film di genere, sono i flashback. Sì, sì, che sono pochi, messi nel momento giusto. Lui ha la febbre, quindi delira, e allora glieli metti lì. Sì, sì. Funzionano anche quelli, insomma. Quindi Monco, devi andare a vedere. Bene, va bene, io sono fermo all'uno, uno e mezzo, va. Vabbè, guarda un po' pure gli altri, insomma. Vabbè, sì, dai, per correttezza, per completezza. Va bene, allora, passiamo invece all'ultimo film. Aspetta, film. Visto che non abbiamo detto news, comunque c'entra, volevo dire che il 25 dicembre ricomincia un'altra saga di agenti speciali. Di agenti speciali presi da romanzi, perché c'è un ulteriore reboot del personaggio, comunque della saga di Jack Ryan, di Tom Clancy, che ricordiamo è stato interpretato da Harrison Ford, prima ancora da Alec Baldwin, e già nel primo reboot da Ben Affleck, non so se vi ricordate, Alta Tensione, non era malissimo, però a me piace molto come personaggio, i film non sono eccezionali ma sono divertenti. Comunque la rifanno, un ulteriore reboot, e il protagonista è Chris Pine, vabbè. Non se ne sentiva la necessità. Ho capito. E vabbè, visto che siamo in area di news, allora diciamo pure la tragica news che per il quale il Bonco si è disperato, ovvero il film con Joseph Gordon-Levitt, Senza freni, non uscirà più nei cinema, ma diventa un direct video perché è stato un floppone negli Stati Uniti. Ecco, io comunque lo sto già cercando, quindi non è un problema, però insomma, vaffanculo. Che cavolo. La Universal, sì? No, mi sa che è 20th Century? No, la Warner Bros, mi sa. Sì, vabbè, Warner Bros. Le abbiamo dette tutte, insomma. Warner Bros. Non è colpa loro, evidentemente è andato proprio male, perché di solito... Me ne frega un cazzo. È colpa degli spettatori. Warner Bros. Senza freni, ma... Magari farà pena e dirà, hanno fatto bene. No, ma... Non è Warner Bros, è Warner Bros. Non c'è scritto manco su Wikipedia, cioè... Warner Bros, te lo dico io. Ah, Warner Brothers. Oh. E allora, visto che siamo... È anche uscito... Sì. No, è della Columbia. Columbia Pictures. E allora? E allora è della Warner Bros. Vabbè. Ok. Abbiamo fatto quasi tutti i film del weekend, tranne uno che era probabilmente a mani basse il più bello della storia, che è Shark 3D, visibile anche in 2D, e purtroppo niente, non siamo riusciti a vederlo, ma ne parleremo, arriverà il suo momento. Ok. La merda dei Brave, no. Infatti, cioè, ma io volevo andare a vedere Shark 3D, ma non ho trovato il tempo tecnico, vedi. Peccato, intanto il titolo originale è Bait 3D. Sì. Poi però... non confondetelo con Shark Knight 3D che è adesso su Sky. Ecco lo squalo. No, così quello è brutto. È bruttissimo. Allora, passiamo all'ultimo film che tratteremo oggi. Stiamo parlando del nuovo film Pixar uscito il 5 settembre con ben 4 mesi di ritardo rispetto all'uscita internazionale. Stiamo parlando di Ribelle the Brave. Allora, di questo nessuno ne ha ancora scritto la recensione, toccherebbe a me, ma ovviamente deve darmi il tempo tecnico di scriverla, perché l'ho vista solo ieri sera. E non lo so, lo introduco io? Sì. E poi tu spruzzi a credine un po' ovunque. No, dai, alla fine, vabbè, dai, vai, vai. Allora, vabbè, insomma, buttiamo lì un po' di trama così, senza pensarci troppo. Stiamo parlando della storia di Merida, che è la figlia dei regnanti di Scozia, che poi non ho capito bene, penso sia uno dei 4 clan di cui si parla appunto nel film. Insomma, Merida raggiunge un'età matura per un matrimonio e quindi vengono richiamati tutti i clan della Scozia per partecipare con i rampolli dei vari figli dei capoclan a un torneo che deciderà quale sarà insomma il marito di Merida. Insomma, Merida però non ci sta, tira d'arco e insomma tira d'arco, sì, ma quello sembra che ammazza tutti e fa una strage, no, insomma tira, diciamo, di cocaina che... è appassionato di tiro con l'arco e quindi in qualche modo, non speriamo come, insomma, anche se abbiamo già detto, però vabbè, riesce a conquistare la sua mano battendo gli altri pretendenti al trono e nasce un conflitto che comunque andava avanti da almeno da quanto lei era nata, insomma. Nasce un conflitto con la madre che la vorrebbe principessina perfetta. E insomma, da qui varie peripezie, ovviamente il rapporto incrinato con la madre determinerà un cambiamento sgradito e di conseguenza Merida dovrà fare delle cose, insomma, per rimettere tutto a posto. Ok? Merida, she's got a secret. Sì. Allora, dicevamo, allora è un Pixar minore. Mettiamo subito le mani avanti, però perché è un Pixar minore? Oltreoceano hanno detto, no, vabbè, è un film brutto, quella. No, non è un film brutto. Non è un film brutto, piange il cuore vedere una percentuale di recensioni positive che si avvicina a quella di Madagascar 3, francamente. Cioè, veramente roba che a me mi prodono le mani quando sento certe cose. È un Pixar minore perché non ha la verve creativa, non ha il gusto citazionista, ma soprattutto non ha nemmeno l'originalità degli ultimi film Pixar, dei grandi film Pixar che sono Up, per quanto mi riguarda sono Up, Ratatouille e Wall-E. Secondo me al di sopra di questi non c'è niente. Quindi diciamo è una storia meno di ampio respiro, anzi diciamo è una storia intimista, nasce come storia intimista, no? Una storia personale di madri e figlie che è stata appunto scritta da Brenda Chapman, che era anche regista del film, ma poi c'è stato un avvicendamento per divergenze creative e l'ha sostituita Mark Andrews. Subito si è infilata allo scandalo e misoginia in Pixar, quella no, nessuna misoginia, l'avvicendamento di registi che non hanno che hanno appunto divergenze creative con i produttori è una cosa che nel mondo dell'animazione avviene spessissimo. Riguardavo l'altro giorno i contenuti speciali del Re Leone e è successa una cosa anche lì, quindi insomma stato, al Re Leone partecipò anche Panda Chapman, e vabbè, insomma, tutto è collegato. E quindi, insomma, nessuna misoginia, semplicemente non sappiamo cosa è successo, non mi sembra nemmeno... mettere un leone. Probabilmente. Tra l'altro non mi sembra manco che la Chapman abbia ripudiato il Pargolo, quindi insomma alla fine comunque resta un film scritto da lei, un film molto personale, e probabilmente anche il fatto di non essere così d'ampio respiro come le altre storie lo rende un Pixar minore. Però, secondo me, quando si parla di Pixar... si ritengono, diciamo, scontate, si dà per scontato che ci siano delle cose, degli elementi che effettivamente scontati non sono. Basta vedere comunque qualsiasi altro film d'animazione che non è Pixar, anche quelli più riusciti, inevitabilmente che cosa non si ha? Innanzitutto non si ha il gusto per il dettaglio della Pixar, e quando parlo di gusto per il dettaglio, oggi la l'ho detto con una frase un po' aulica sul forum, però alla fine spiega perfettamente il mio pensiero, nel senso che tu quando guardi un film Pixar, per esempio guardando Brave, veramente senti l'odore di pino dopo la pioggia, è una cosa pazzesca la ricostruzione della Scozia, quando invece ad esempio un Kung Fu Panda a caso, che cosa fa? Cioè ti schiaffa una papera che fai i spaghetti a vapore e due ideogrammi qua e là, cioè là non ti senti in Cina, qua invece ti senti in Scozia. E diciamo è un'eredità del modo di fare cinema della Disney, perché comunque, sempre ricollegandomi al fatto che stavo vedendo il speciale sul Re Leone, però anche lì gli autori andarono per non so quanti mesi in Kenya a studiare la savana, si portavano i leoni dentro lo studio, qualcuno penso sarà morto anche sbranato, insomma, cose del genere. Però è un modo di fare cinema che prevede l'ambientarsi in questi luoghi che poi verranno comunque riproposti nel film, quindi insomma questo immagino sia più unico che raro nel panorama almeno di chi fa animazione in CGI. Ma poi comunque per quanto sia una storia piccola rispetto agli altri Pixar, è comunque una storia che rompe diverse regole, diciamo non c'è un villain in questo film. La strega cattiva che normalmente in un film della Disney, non lo so, mi viene in mente ovviamente la strega della Bella Addormentata, quella di Biancaneve, ma ad esempio per non andare troppo lontano anche Jafar in Aladdin, che non è una strega, è uno stregone, vabbè. Rapunzel, appunto, cioè la strega è sempre un villain. In questo caso invece che cos'è? È una maestra riluttante, nel senso che a chiunque vada a chiedergli un incantesimo innanzitutto non accetta subito di fare questo incantesimo, quindi vabbè, qua siamo a fare spoiler, però ormai l'avete capito, quindi è inutile che lo puntualizzo. È un'intagliatrice appunto, che non vuole fare questi incantesimi, ma quando li fa diciamo che cerca di insegnare qualcosa, e vabbè, facciamo lo spoiler qui. No. Che cosa succede? Vabbè, infatti non lo facciamo, dai, meglio di no, perché sennò poi, veramente chi è interessato, diciamo, all'argomento deve interrompere qui non è Batman, diciamo, non l'avranno visto proprio tutti. Appunto, quindi non andiamo oltre con lo spoiler, diciamo solo che comunque l'elemento, insomma, della strega cattiva è un elemento di rottura rispetto alla tradizione, come lo è secondo me anche l'emancipazione di Merida, perché in altri casi l'emancipazione del personaggio femminile passa per il compromesso di un amore impossibile, in questo caso invece non avviene questo, insomma. Diciamo solo così, non andiamo oltre sempre per non spoilerare, però è comunque qualcosa di diverso rispetto alla fiaba cinematografica. E niente, detto questo, a me, come immagino avete capito, è piaciuto tantissimo, non penso che ci sia tanto da dire sul lato tecnico, insomma, per la prima volta vediamo dei capelli realistici in un film in CGI. Ma dai, anche Rapunzel. Sì, però non lo so, comunque il Rapunzel era la massa, qui invece riesce a vedere proprio il singolo capello che comunque... Fatti bene, ma non realistici, qui c'è proprio l'ingrovigliarsi dei capelli, davvero... Sì. E niente, insomma, c'è sempre un character design a livello estetico che è diverso comunque dagli altri che fanno cinema d'animazione con personaggi umani. Per certi versi mi ha anche ricordato molto Gli Incredibili, immagino che quello sia diventato, insomma, uno standard all'interno di Pixar. Cioè, in particolare il figlio di uno dei capi clan, quello che non sa parlare, insomma, quello che c'ha la parlantina incomprensibile, quello è molto, molto simile, insomma, al personaggio medio di Incredibili, ecco. Intanto arrivano foto moleste sulla chat di Skype. E niente, quindi il mio giudizio è assolutamente positivo. Ripeto, il Pixar minore, come dice anche il buon Frusciante, non puoi dire Pixar minore, perché il Pixar minore piscia in testa a gran parte della produzione d'animazione odierna, insomma. Quindi diciamo che non si avvicina ai capisaldi della produzione dello studio, però spicca in quella marmaglia di A Bug's Life, del secondo Toy Story. Ci metto anche, diciamo, alla ricerca di Nemo e Mostrarsi in così bene siano film notevolissimi, che comunque non raggiungono l'apice raggiunto dagli altri 4-3, insomma, Gli Incredibili, Ratatouille, quelli che ho citato prima. E in questo gruppo comunque fa bella presenza. Non è Cars, insomma. Cars, che sebbene, vabbè, io ovviamente essendo una la puttana di corte di Pixar apprezza anche cose del genere, gli perdono anche cose del genere, diciamo, però appunto non è Cars, è comunque un film notevole, solido dal punto di vista narrativo, non c'è mai un calo di ritmo, e è un film che secondo me è consigliabile, insomma, è una bella, si è ripresa parecchio Pixar da Cars 2, che insomma è stato un grosso falso. E considerando che, insomma, la politica produttiva dello studio sembra ormai chiara, ovvero si fanno sequel alternati a film originali, quando arriva il film originale secondo me va anche apprezzato. Soprattutto perché qui c'è stato anche il coraggio di fare una storia più intimista, più personale. Bravo. Oh. Anzi, brave. Ah, e poi ti anticipo, perché ne parlavamo ieri, ovviamente i personaggi sono tutti ben caratterizzati, ma c'è la mamma di Merida che spicca. Personaggio fantastico. Quello no. Volevo dire. Vai, allora te lo butto lì il suggerimento e parlane tu. Ecco, la madre che non è doppiata da nessuno di quelli famosi che sono prestati. Vabbè, è doppiata da una doppiatrice vera. Ed è qualcosa di sensazionale, sia per l'animazione, sia per la caratterizzazione. Sembrava una persona vera. Mi è piaciuta tantissimo. E ha contribuito appunto anche la doppiatrice, che è bravissima. Quello che ti dicevo ieri, comunque, sì, sono d'accordo con te. È che io non sono così Pixar fag come te. Quindi, sì, è un film minore, è bello. Ma appunto purtroppo è un Pixar, quindi il paragone con gli altri deve esserci, cioè ci caschi nel paragone e dici vabbè, insomma, bellino, ma niente di che. E poi non mi è piaciuta quella twist, insomma, quello che non possiamo dire, quello che succede dopo l'incantesimo, che mi sembra abbastanza forzato, cioè guarda caso diventa proprio una cosa che genera parecchi problemi. Poteva diventare qualsiasi cosa, e il fatto che diventi proprio quella cosa è quasi illogico, insensato. Però sì, come poi la dici te, che lei la strega deve insegnare qualcosa, allora sì, l'accetto di più, però sul subito mi sono detto, ma perché? Proprio questo. Però, insomma, se posso servire un attimo, no? Eh? Alla fine è comunque un cerchio. Sì, sì, sì, alla fine parte sì. Tutto a monte, nel senso che, vabbè, ovviamente chi ha visto il film capirà, quindi tu immagino che capirai, sì. La rivalità, che poi è quello che credi tu, il fatto che lei si sia trasformato nell'oggetto della rivalità del marito, parte a monte, nel senso che la strega fa quello che fa ben prima che nasca quella rivalità, quindi in un certo senso è sul momento, come dici te, sembra illogico, poi però magari quando il film ti spiega più cose, sì, poi quando c'è non è più così logico, insomma, quando seguono i vari fuochi fatui, insomma, si capisce di più. Però non riesci a salvarmi i principini, dai, sono fastidiosissimi, sono una cosa intollerabile, anzi, unbearable. Questo può essere spoiler, però solo per chi capisce. Sì, non, effettivamente è un elemento messo lì per dare un po' più dinamicità alla situazione, però... È DreamWorksiano, cioè, dai. Ma oddio, DreamWorksiano non lo so, perché alla fine, cioè... può sembrare così, però alla fine DreamWorks non è che ha inventato lo slapstick nel cinema d'animazione, quindi semmai l'ha declinato male. Appunto. In questo senso magari si può dire che è un po' declinata male la comicità slapstick dovuta a questi tre pestiferelli, insomma. Ste tre merde. Madonna. Sono più stronzo della madre, sicuramente. Ma la madre me la bomberei. Ma anche bella donna, soprattutto sul finale, quando con i capelli sciolti è biotta, sì, altro sì. Che Merida, donna matura. I capelli rossa di capelli. Ah no, quella è un'altra cosa. È la figlia. La foto che hai appena postato. Ma l'hai vista la foto che ti ho messo io? Sì, sì, la tiro sappilo, sotto. Sappilo. La tiro sotto. Se ti controllano. Ma è intrinseco. Ti sciolgo. E allora, sì, quando ho finito di vederlo, mi è subito venuto in mente Dragon Trainer senza la caciara. Perché più o meno ripropone la stessa meccanica. Insomma, il figlio, l'ambientazione tra virgolette simile, il figlio che si ribella al genitore. Però, come dicevi tu, i risvolti sono meno prevedibili. È una storia convenzionale. Raccontata in modo un po' meno convenzionale, cioè ci sono delle differenze rispetto alla favola classica, sempre come dicevi tu, cioè anche un interesse a dare un tocco leggermente diverso. Poi sì, ci sono quegli scivoloni, tra virgolette, quelle cose appunto più convenzionali, come i tre fratellini, insomma, i diversivi comici, che sì, nei film Pixar ci sono. Ci sono situazioni ironiche, insomma, la risata bisogna strapparla, però qui effettivamente c'è un po' l'impressione che si tiri un po' di più la risata per queste cose, ma non è, nel senso, non è così invasivo, a me non hanno turbato così tanto come personaggi. Poi anche il fatto di quello che succede con l'incantesimo, sì, è tutto un po' guidato, però non credo potesse essere più sfacciato e voluto, cioè lei deve seguire i Wisp, l'ho visto in lingua originale, cioè c'è un percorso, è tutto un percorso precalcolato, una lezione a monte. Cioè, secondo me, a me non ha sorpresa, addirittura me l'aspettavo, un po' perché sì, bisogna creare lo snodo, l'ostacolo, insomma, i plot funzionano così, però ecco, me l'aspettavo e non mi ha infastidito così tanto. Poi, appunto, sì, come dicevo, c'è un tracciato ben definito, sì, poi c'è il colpo di scena, va bene, però è tutto più o meno, mi sembra che sia una cosa di sfondo questo, l'importante è, come dicevamo prima, raccontare una storia personale, comunque un po' più sentita da chi l'ha scritta, evidentemente leggermente diversa, perché comunque è una rivalità o una cosa che riguarda soprattutto le donne. Di solito c'è la figlia con il padre, comunque c'è un sesso contro l'altro quasi sempre, qui invece è proprio una lotta tra donne che è inserita in un contesto che potrebbe benissimo essere un altro, però è talmente bello, talmente curato, che nel senso, a me è piaciuto molto. Ecco, la sensazione era, forse perché non so perché continuavo a pensare a Dragon Trainer, però ogni volta mi sembrava adesso qua deve succedere qualcosa di esplosivo, di spettacolare, e invece no, ogni volta ti ridimensiona. Ecco, non è un film minore, è proprio un film volutamente composto, cioè c'è proprio la tendenza a lasciare tutto sottotono, comunque senza esagerare, senza... Quando pensi che succeda qualcosa, la scena dell'arco, alla fine le conseguenze sono sempre piuttosto normali. Per questo mi è piaciuto alla fine. Cioè, più terra terra. Sì, secondo me mira in basso intenzionalmente. È una bella storia, una storia semplice, è solo il solito racconto di formazione, perché è questo. Boh, diciamo sì, in un certo senso è un film che ti colpisce più per il lato visivo, che è effettivamente sempre più bello, sempre più spettacolare, sempre più curato, a parte i capelli che chiaramente spiccano, che insomma quel colore, quella forma, sono così invadenti che noti solo quello, però anche i vestiti, il pelo degli animali, cioè davvero ogni volta ti sorprendono. E poi una cosa che ha colpito me, perché comunque dicevo l'ho visto in lingua originale, è il doppiaggio, che è splendido, a parte che c'è Kelly MacDonald che io adoro, mi piace, purtroppo qui non si vede, ma mi piace lo stesso, che in lingua originale dà proprio l'accento, non cockney, però tenta di riprodurre un po' l'inglese medievaleggiante, diciamo, ed è divertentissimo perché lo fa molto bene, quindi tutti i dialoghi tra lei e la madre è tutta impostata, la regina, no? La forma, la compostezza, e lei che invece parlotta questo inglese masticato, quindi divertentissimo vedere battibeccare, secondo me è un valore aggiunto notevole, probabilmente il doppiaggio italiano è buonissimo, io non dico questo, semplicemente in lingua originale riesce a trasmettere di più, cioè è ambientato in territorio anglosassone, sì, Scozia, ma potrebbe essere una Scozia inventata, perché comunque è tutto fantasioso, e quindi qui secondo me l'inglese ha un valore diverso, e poi comunque Emma Thompson, Kelly MacDonald, il padre, Billy Connolly, sono davvero un ottimo lavoro, mi sono piaciuti molto. Sì, ma anche il doppiaggio italiano non è male. No, dicevo solo. Sebbene il coinvolgimento di Iacchetti Covatta potesse far sembrare al peggio, ma immagino invece gli altri membri dei clan, i capi clan. Sì, sì, sì. Ma forse perché non li vediamo. Solo sì. Voce, allora va bene. Sì. Covatta è quello che sembra Covatta, Iacchetti altro sembra Iacchetti. Beh, che se non sbaglio è quello dipinto di blu. Sì. Lo doppia Craig Ferguson, che è conduttore di un talk show americano noiosissimo, che comunque piace molto, che se non sbaglio è scozzese, quindi fa lo scozzese. Tra gallese e gli scozzesi. Gli scozzesi allora. E gli scozzesi. Maledetti scozzesi, avete rovinato la Scozia. Dicevamo. Il corto di Casarosa invece non l'avete visto, quello che viene dato prima... No, sono entrato in ritardo. Ma vedi, nei vostri cinema non... No. Mannaggia. No, che volevo dire? Ah, niente, non mi è sembrato niente di che. Oh. Rispetto ad altri corti mi è sembrato un po' sottotono, non me ne voglia il connazionale che sicuramente ci ascolta. Però, insomma, diciamo che l'idea è abbastanza... non dico risibile, però debole rispetto ad altre idee espresse in precedenza nei corti Pixar, insomma. La realizzazione ovviamente è sempre a alti livelli, però vabbè, ormai quella altra cosa che si dà scontata per un film Pixar, insomma. Però effettivamente non colpisce rispetto ad altri, ad esempio come quello sulle nuvole, insomma, o si gendono ancora mi ricordo, così su due piedi, però non colpisce così. E niente, non lo so, che altro si può dire? Ah, che la strega è ricalcata su Yubaba di La Città Incantata. Io però ho detto Onibaba, vabbè. Vabbè, no, però vabbè, ci stanno tutte e due, non è ma che sì, una altro, dai. Forse è l'unico elemento citazionista. Volevo se bene, dai. E le piume del corvo ricordano lo stregone di... No, vabbè, cazzata. Il castello di Ao. No, scherzo, dai. Però, ecco... È uno scherzone. Basta anche storie nel Medioevo, basta. C'è sta cosa che t'ha annoiato... No, non è che annoiato. Sì, nel senso... possiamo anche esplorare altre epoche, tipo gli anni 20, non so, a me piace, tipo un nuovo Fievel. Ma la Pixar non mi sembra recidiva. Però caso sto parlando di animazione in generale. Nello spazio di 5-6 anni, Dragon Trainer, Rapunzel. Vabbè, quello sì. Krell, già, Rapunzel. Secret of Krell. Kell, come cazzo si chiamava? Kells. Insomma, vabbè. Non è che tutte le favole sono state inventate, cioè, più o meno. Tutte le fave? Sì, sono ambientate più o meno in quell'epoca, insomma la fiaba è prettamente vicina al Medioevo, però insomma. Prendiamo la fiaba E mettiamola in un'altra epoca, eh? Così è il 1800, un bel coso rococò. Tutti gli spazi che possono inventarsi. La scelta dello scenario fosse anche, diciamo, funzionale a creare una sorta di stridore, insomma, dissonanza tra il fatto che comunque la rivalità da donne sembra quasi uscire fuori da un contesto moderno, mentre invece, insomma, si parla di un contesto medievale. Magari anche per quello è stato scelto il Medioevo come scenario. Poi non lo so, dobbiamo chiedere alla chat, ma c'è il numero di telefono? Sì, 6, 1... E non lo so, che altro vogliamo dire? È uscito il nuovo trailer di Ralph Spacca Tutto. Beh, c'è chi ha detto, insomma, Brave è il segno che il Walt Disney Animation Studios ha sorpassato la Pixar. Va bene. No. No, più che altro facevano un confronto tra Rapunzel e Brave. No, non toccatemi Rapunzel, Rapunzel è meravigliosa. Appunto. Cioè, gli caga in testa Brave, mi dispiace. No, mi dispiace. So. Sì, sì. Magari è... Ma non lo so, non sono d'accordo. Ecco. Laura Chiatti però batte la cantante italiana, come si chiama? Ah, ecco, le canzoni, parliamo pure un attimo delle canzoni, secondo bruttarelle, me. Cioè, l'aveva persa sta abitudine, la Pixar, non capisco perché l'ha ripresa. Ma l'hanno doppiata le canzoni? Sì. Brutta. Perché anche in lingua originale, a parte che il momento in cui le inseriscono sembrano sempre un po'... Sì, vabbè, il silenzio, l'esplorazione, però sì, anche in lingua originale non mi ha fatto una buona impressione. Ma io l'ho sentito, dopo che ho visto il film in italiano l'ho sentito un po' con l'inglese, con l'italiano sono anche peggio. No, beh, lì c'entra in gioco la traduzione, io dicevo in generale il doverle inserire. Bene anche senza, probabilmente sì, in italiano peggiorano le cose. No, ma al di là della traduzione, anche la scelta dell'interprete che secondo me... Noemi, la cantante. Ah, benissimo. Una voce rauca, sembra... Stanca, proprio. Sì, ubriaca. Opposto poi di quella in originale, che è molto suadente. Almeno, come si chiama, cocciante in Toy Story ci stava con la sua voce rauca. Qua invece, cioè, sì. Vedi la ragazza che è tutta gioiosa e lei... Ce lo toccherò! Che cosa brutta, guarda. Meno male che non l'ho visto. No, infatti è l'unica cosa forse che stona veramente in questo film, le musiche. Ripeto, la Pixar l'aveva persa, sta abitudine. Però, insomma... Ma come? Rapunzel canta parecchio. Ma infatti non è Pixar, Rapunzel. E che cos'è? Come no? Non è Pixar, è Walt Disney Animation Studios. Ah. Ma che ne so? Cioè, gli stessi che hanno fatto i film della Disney, appunto. Sì. È il 50° classico della Disney. Sì. Che poi saranno gli stessi che gireranno. Che hanno girato Ralph Spacca Tutto. Insomma, aspettiamolo un po' al varco. Perché come idea è suggestiva questo Ralph Spacca Tutto, no? Sì, certo. Quindi, insomma, potrebbe. Piace ad Anonimo Misterioso. Insomma, non è mica. Non è roba da tutti i giorni. Catto. Allora, ciao. Finisce qua l'episodio 12. Salutiamo. Ciao. Saluta Modi Muppet. Ciao. Oh, ciao.